uguale. Sì, a me è male. E intanto sono quasi meno un quarto, è giusto l'orario. Adesso io telefono a Franchetto perché non si fa sentire in radio. Mi è già fuori, dai, ok. Beh, Lucrezia! Pronto, Gianni? Dimmi, Natali! Franchetto l'ho già preso, Non l'ho Franchetto! Passeggi al quadrato! Vai, aspetta, te lo passo, dai, che io guido un tanto. Me lo prendo a Giuseppe, dai, dico che ho fatto prima. Cavolo, sai che ho un radio giusto, Presto! Quarto! E ma io ho detto, lui ha detto alle 9, io ho detto alle 9, ma non quanto, poi lui ha detto alle 9. Positivo? Vabbè, con il telefono rifate lo squillo. Ha pagato. Ehi, ehi, là! Così ti fa lo squillo, capito? Lucrezia! Mio culo! Ma quello è mio figlio! Ti sei battente! Che a me comunque Facebook non mi piace assai, è blu! Malotto! Ma dopo i cavoli degli altri, non capite? Fa ammazzere! Non mi interessa, cioè sono dopo i cavoli tuoi, capito? Anche se vuoi, puoi mettere la privacy già, capito? Se vuoi, se no la lascia aperta. Già lo so, ma lo so, lo puoi fare vedere in vista a tutti oppure solo agli amici tuoi. Ma comunque, non mi attira più di tanto, mi piaceva più Messenger quando c'erano le chat, MSN. Li ho conosciuti io già. Cosa? Che non li ho conosciuti io, capito? Ma era bella, ecco, la chat lì non era bella. Era. Oh Gianni, un paio di cuffie per computer, ovviamente spendendo. Le trovo, sì, cioè nel senso che di quelle belle che suonano bene. Cuffie, ma con microfono? Sì, ya. Deve avere quelle cose specializzate in computer, quelli li vedo, se non chiede a Franco come se ce li ha. Franco non li ha queste cuffie così. Un attimo, la bacio. Carino, dove siete? Piazzale Segni. Dai, dai, stiamo salendo. Natalius, Natalius. Ma mi ascolti, cazzo? Sta uscendo bene. Eia, eia. Gava, gava. E vabbè, io c'ho questa colonnina che non è che rende molto, la devo staccare. Si sente meglio dall'apparato. Allora, pazziva. Eccoci qua. Ah, che c'è? Cosa? Siamo ancora per la Sereza. Sto a parlare con Giuseppe, là. Buonasera Natalino. Natalino, sta bene. Ciao Franchetto, buonasera e ben sentito. Sentito anche a te. E come butta lì su? Sta nevicando su in piazzale Segni? Ecco, mi sentite? Avanti Luca, cambio! Mi sentite? Che buono! Attenzione, canale 21, ho dato gli 8. Canale 10, canale 10. segni, mi ascolti? Ma sono io. Controlliamo se hanno pulito bene la strada, dai. Cavagava. Torno, c'è tutto pulito. pulito, E come fa che? Sto pulito, poi passiamo gli spazzini domani mattina. C'è che subimi, capitano. Ma come siete, direte? Avanti. Vederete? Non lo so, qualche. Al quinto pettine mi conferma il pilota qui a fianco a me. Perché? Non si deve guardare per le zone? Eh sì, deve dare una piccola ristrettina al perizoma bagnandolo. Alfa 1 ad Alfa 2 cambio. Avanti il cambio, buonasera. Buonasera a voi due. Per adesso ci stiamo dirigendo dove ci portano le ruote. Voi siete sempre dietro? Noi siamo, non dietro, attaccati. Allora aspetta appena appena che cominciamo a sistemare bene il perizoma. Della serie mutande di lamiera. Lucchetto, se possibile. Il lucchetto di quelli a doppia mandata, naturalmente, perché ho i tempi che corrono. Il traffico stasera. E cappa. Eia! Guarda che c'è lo sportello aperto, tu. Alle dietro. Tu. Così, Popri. Ah, stava bene, era bene. Senta, riprendi un attimo il navigatore per riprendere un attimino l'autista. Ero mezz'ora che gli dicevo, c'è una spia rossa che lampeggia lo sportello, la varia dello sportello lato guida aperto, cambio. Ecco, glielo segna. Cappa, caspita se glielo segna. Non per niente è anche tipo Kitty questa macchina, è parlante, cambio. Capito. Bene, dai. Ci stiamo avventurando per i meandri delle cose, non so manco dove stiamo andando. E niente, se chiamate e seguiteci, io non so Gianni che intenzioni abbia. Attenzione ai picchetti, anche qua la mettiamo bene in posizione, no? Qui chiudiamo le trasmissioni, le trasmissioni riprenderanno il prima possibile. Attento, Gianni Ghizzo, ci sei? C'è qualcuno qua?